13 giugno. Il pericolo che abbiamo corso è stato piuttosto grave, ma ora sembra superato. Il nostro preside e il segretario politico sono stati molto buoni e generosi con noi e ci hanno salvato dalla rovina della nostra carriera. Eppure non sento piacere di ciò. Ma una grande umiliazione. Avevo prima sperato di essere perseguitata e io mi ero illusa che potesse servire. Ora invece ho perduto totalmente ogni slancio di fede e di entusiasmo. In questa guerra assurda si è sommersa ogni nostra energia di ribellione. È inutile. La guerra paralizza lo spirito. E intanto prosegue questa nostra strana indifferente apatia nei riguardi degli avvenimenti militari. Non sono molto brillanti per ora, ma questo non vuol dire. Potrebbero essere assaggi e ho fiducia nel genio militare di Badoglio. Ma è la nostra sensibilità della guerra che è disorientata.